Buonanotte dottori, buonanotte baroni, alle casse d'arancia del sud, anche quella zanzara che mi vola sul muso, alla cuoca che inventa un menù. Buonanotte al soldato, a quell'erba sul prato, alle rondini sotto il garage. Presto si apre la caccia, buonanotte alla lepre, la lupara è scarica ma spara in città. Buonanotte a quel ladro del droghiere qui accanto, a quel cane bastardo che ho, anche a quel paraculo che ha imbrattato il mio muro perché Anna non l'ama già più. Buonanotte signora, buonanotte mignotta, alle lucciole al mago Zurlì, anche a quel ragioniere che per fare un piacere ha contato un miliardo di più e non c'è più. Buonanotte all'amore, notte anche a te, chissà in quanti letti si fa. Buonanotte Maria, se c'eri qui tu, la notte era buona di più. La sera anche ai tavoli fuori dal bar, e a quel vecchio che piscia sull'asfalto il suo vino, e da quel metronotte che va. Buonanotte scolari, buonanotte somari, ai politici, alla TV. Buonanotte maestro che rimpiangi le aste e che odi le biro e i blue jeans. Buonanotte alla torre, alle porte sprangate, ai piccioni che dormono già, anche a quell'aeroplano che hanno preso per UFO e a quel gatto randagio che va in libertà. Buonanotte Maria, se c'eri